il sabato alle 21 su Radio Onda Rossa. Io faccio la mia mossa e ascolto Musica Macchina. Ora vado a colpo sicuro e del resto non mi curo. Il sabato è più bello perché c'è Musica Macchina con me. Sabato sera stai con noi, accendi la radio in auto, in casa, dove vuoi. Musica Macchina inizia per voi su Radio Onda Rossa. Dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Yeah! Il sabato alle 21 lo sa anche l'orso Bruno. Musica Macchina come gli eroi, va in onda solo per noi. Su Radio Onda Rossa la troverai, credi a me non te ne pentirai. È quello che cerchi, non ci crederai. Musica Macchina è unica, sai. Il sabato sera dai, unisciti a noi. Su Radio Onda Rossa tu la troverai. Preparati al viaggio, non devi esitar. Con Musica Macchina la festa è qua. Un pianista cerca un fiore nel buio e lo trova, un fiore che non esiste, e ne canta la certezza. Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c'è e trovarlo. Musica Macchina. Trasmettiamo a colori Musica Macchina, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidian. Cerchi qualcosa, cerchi la musica, non c'è problema, qui c'è la macchina. Senti la musica, senti la macchina, ascolta sempre Musica Macchina. Musica Macchina, spazio novità, la nuova musica elettronica. spazio cosmico vi porterà. Musica macchina, spazio novità, anche questa settimana fatela scappare, anche in streaming la potrai ascoltare. Nothing fails it to fame and water. A people some look but to not a fair. O people some look but to not a fair. Nothing fails it to fame and water. A people some look but to not a fair. But people never got to it all the time. O people some look but to not a fair. Musica Machina. Musica Machina. So skinny, radio on the cross. So skinny, radio on the cross. Thank you. un benvenuto a tutte e a tutti. Questo è lo spazio novità di Musica Macchina in voce con voi. Amptech, ho aperto con il nuovo singolo rilasciato sulle piattaforme di Sifil, un progetto storico di contaminazione elettronica pubblicato da Warp, un brano che prelude probabilmente al nuovo album che si intitola Ever No Way. Si film, andiamo avanti mantenendoci nel perimetro Warp con Tom Jenkinson, ovvero Square Pusher, un altro brano che anticipa l'album che uscirà il 10 aprile, Camer Concert, il titolo del nuovo album, K7 Museum, Square Pusher. Salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene. Musica Macchina. No, grazie. We'll be right back. macchina. Questo era Square Pusher, musica macchina, nuovo singolo che prelude il nuovo album. Devo dire, rispetto all'altro brano che aveva già fatto, ci aveva già fatto ascoltare Tom Jenkins, song che mi ricordava vagamente il Tutto Forever, questo brano ritengo abbia dei piccoli influssi zappiani, sarà per alcuni suoni di vibrafono. Andiamo avanti con un altro progetto storico della scena elettronica britannica, si tratta di DMXQ, un progetto che abbiamo conosciuto ai suoi tempi su Reflex Records, anche No Way to Control It, il titolo dell'album, DMXQ. We'll be right back. vi ricordo, siete all'ascolto dello spazio novità di musica macchina. Questo era DMX Crew, un progetto storico della scena elettronica britannica che si discosta dagli altri lavori che abitualmente sono abbastanza electro. In questo disco mi sembra che spazi in sonorità che rievocano un po' il mondo IDM degli anni 90. Lo ascolteremo anche nelle prossime settimane. Andiamo avanti con un altro progetto inglese. Questa sera saremo sintonizzati sull'elettronica britannica, The Black Dog. E questo era Black Dog, nuovo EP, Loud Ambient EP 1. Andiamo avanti rimanendo sempre in Gran Bretagna. Lei si chiama Catherine Backhouse, ma si fa chiamare Xylitol. Già inciso un album lo scorso anno per la Planet Moon Records di Mike Paradinas. E chiudo quindi lo spazio novità di Musica Macchina. Vi ricordo anche il nostro sito di riferimento www.musicamacchina.com. L'album di Xylitol si chiama Blumen Fantasy. E scoprirai che puoi farla tutte le volte che vuoi.

musica macchina. Non se può spiegare. Se può spiegare. Come vai a spiegarlo? Quando sono in amore, vedo la luna o tra loro vengono in contatto. Tutte cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia. Sono cose da non fare al gatto. No. O il gatto ti graffia. Sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia e grida mia. Sulle zampe, il dito nell'orecchio. Prenderlo, rispingerlo, poi sbatterlo, arruffarlo, fargli pizzichi, solletico, soffiargli dentro il muso e nelle orecchie. Fino a farlo diventare matto. Ecco, sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia. Sono cose da non fare al gatto. O il gatto ti graffia e dice miau. Cose da non fare al gatto. Yeah. Da Magico Radonda per Radio Onda Rossa, musica magica. Sul viso di ogni bambino che si rivolge agli esseri soprannaturali per i regali. La media del mio comportamento annuale, cosa ricevo, andrà a determinare il pupazzetto per qualche motivo, un fossile combustibile che avrà avuto la bontà, riceverà dei doni. Chi invece malvagità conseguirà senza altro carbone. E se tu meglio sei stato, riceverai impacchettato un gatto. Lanzarote, il gatto con le ruote arriva giù e ti spacca la TV. Lanzarote, il gatto con le ruote va lassù, te ne ha portata una giù. Miau, miau, miau, miau, miau, brum, brum. Viene in casina, sistema, poi scappa via. Sostanzialmente se arriva non cambia proprio niente, è perplimente. Questo è il motivo per cui in molte magioni non percepisci regali, neanche carboni. Sei stato meglio, ricevi il regalo banconote, ma sono vuote. Allenone uno yo-yo, loro sono state buone, però mio cugino no, infatti ho ottenuto il carbone. Rouge. musica macchina. We'll be right back. musica macchina. Non se lo spiega. Se lo spiega. Come vai a spiegarlo?

è sua. Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici. Musica macchina. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Thank you. Musica Macchina. Saluto per Musica Macchina da Magico Patonda per Radio Onda Rossa. Musica Macchina. Quiero escuchar música en máquina. Un espresso meglio che al bar. Musica Macchina è una scelta intelligente che ti premia in salute. Informati. Caro a Musica Macchina su Radio Onda Rossa da Valerio Brea. Baci. De la monte. Tratta monti fontisi, diaga, 501 L. Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta. Musica Macchina, tutti i sabati. Dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa 87.9. musica macchina. Non se lo spiega. Se lo spiega. Come vai a spiegarlo? Psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima. La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello. Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare. Bestie rare ascoltano musica macchina. Ciao, siamo le bestie rare, anche noi ascoltiamo musica macchina. La musica macchina è la migliore trasmissione dell'etere. Lo dicono in tanti, Da quando l'uomo ha inventato l'orecchio. Da quando Marconi ha inventato la radio. Sì. Thank you. salute e per quella delle persone alle quali vuoi bene. Musica macchina. No, grazie. Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale. questo è il vegetativo inconscio di torno alle infinite multiformi origini. Macchina. Hallo, Christa, die Musiker bei China. Noi siamo Musica Macchina. La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo. Musica Macchina. Qualità costante nel tempo. Thank you.

Musica macchina. È fondamentale. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Mica tanto. sabato di sempre di Calvetuno, Calvetuno, su Radio Alta Rasa, Malika Machina.